Non c'è mai stato così tanto distacco tra l'imprenditoria, la sana, quella sana, e la politica. Io sono convinto che le sanzioni perderanno qualsiasi peso nel momento in cui l'imprenditoria, le aziende serie, eccetera, eccetera, cominceranno a lavorare seriamente in questo paese. Le aziende potranno dimostrare alla politica che questa politica delle sanzioni non solo è inutile, ma serve solo probabilmente a qualche paese della Commissione europea che pensa di riscrivere la storia attraverso le vicende russe. Ecco. Quindi si chiude la partita con la collaborazione, con la conoscenza, con il dialogo. Bravissima. Cioè, vuol dire, se non c'è dialogo, anche se possiamo o dobbiamo esprimere delle critiche a questo paese, anche se riconosciamo una serie di limiti e di difetti, ma non si è mai visto a livello internazionale un dialogo che è fatto di contrapposizioni. Cioè, vuol dire, noi non possiamo da una parte mettere le sanzioni e poi dire, come ha fatto Juncker, comunque dobbiamo collaborare, come e dove. Cioè, quindi noi imprese dobbiamo andare avanti perché siamo convinti che noi siamo portatori di dialogo, e il dialogo è il dialogo e l'integrazione sono il modo giusto anche per superare i problemi che oggi ha la Russia o che noi riteniamo essere dei limiti. Visto che lei è così schietto, però l'Italia non è stata, per esempio la Francia, addirittura il Parlamento ha votato per dire basta, annulliamo, riduciamo le sanzioni. L'Italia è un po' meno chiara, siete più voi imprenditori ad alzare la voce. Ma io guarda, sono di quest'idea. Io penso che anche la politica debba perdere questi momenti di piccola ipocrisia o di populismo. Il Parlamento francese vota per togliere le sanzioni e poi quando siamo a Bruxelles il governo francese si è dimenticato della mozione del Senato. Allora il Senato può votare tutte le mozioni che vuole, il Senato francese, ma a me interessa quello che decide la Commissione. Su una linea molto simile Philippe Gorier, presidente di Alstom Russia, gruppo industriale francese del settore ferroviario e membro del board della AEB, Association of European Business in Russia. Organizzazione nata 20 anni fa a Mosca per iniziativa della Commissione europea, che oggi rientra nel network delle organizzazioni europee di impresa nel mondo promosse dalla Commissione. I think that first it's a good sign. È un buon segno, ci dice, che i leader europei siano venuti qui e abbiano incontrato il presidente Putin. Mr. Juncker, due commissari sono venuti. Un buon segno per la normalizzazione. Però sappiamo che le sanzioni non saranno rimosse ancora per un po'. Why? Because the economic situation in Russia is improving. E perché? Beh, anche perché la situazione economica russa sta migliorando dopo un periodo durissimo, vedremo un miglioramento del PIL, non forse quest'anno, ma il prossimo anno direi di sì, e questo non spronerà la Russia a fare concessioni sul fronte ucraino. Stanno governando la situazione. I think in my opinion that we need to wait the elections in France. Per quel che riguarda l'Europa, credo che per creare un gruppo di consenso alla cancellazione delle sanzioni dovremo aspettare almeno fino alle elezioni francesi. E ci saranno anche le elezioni in Germania, anche se lì non saprei dire se ci sarà un cambiamento. Ma in Francia dovremo aspettare e vedere chi sarà il nuovo presidente. E voi nel frattempo che fate? Gli chiediamo. Noi lavoriamo nel frattempo, investiamo. Alstom ha continuato a investire, lavorare e lottare, non aspettiamo i politici. Quindi anche lei pensa che in questo periodo nei confronti della Russia il mondo della politica e quello dell'impresa vivano in due realtà diverse? We are in the real world and our politicians are in another world. Sì, viviamo in due mondi diversi e questo forum ha proprio il pregio di mettere tutti insieme e far sì che possano dialogare. Purtroppo sul tema della Russia siamo davvero distanti. But it's a pity, but it's true that we are far from our politicians. We are far from our politicians on this subject. Se ne parlava di tutto questo prima che esplodesse la bomba Brexit, dimostrando quanto la realtà dei cittadini britannici fosse ormai diversa da quella percepita dalle istituzioni europee a Bruxelles. Ma ora che è successo, non ci sono più attenuanti per ignorare questa schizofrenia dei rapporti con la Russia. perché anche questa disarmonia non fa bene all'Unione. La soluzione non è certo cancellare il passato, ma superarlo per gradi ed obiettivi, sì. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.